Signori e signore, questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Lui è Gigi D'Agostino. È arrivato il folclorista, eh? Dai un po'. Dai un po'. Chi lo ha detto che ogni sabato bisogna per forza fare, per forza fare, per forza fare, per forza fare? Ma cosa? Non mi ricordo cosa dovevo dire. Sì, vabbè. Se volete scrivere il vostro messaggino, il vostro pensierino a Gigi D'Agostino, a Gigi D'Agostino, il numero di SMS è il seguente: 333-64-67-662. Minchia Dago, sei troppo ritmico. È vero. Lui viene da Torino e Gigi D'Agostino. Mi piace suonare un tormento contento e che il movimento sia lento violento. Lento, violento, lento, violento, lento, violento, lento, violento. Vorrei mandare un caldo abbraccio a Hana di Bellaria. Tu sì che sei la luce. Saele da Imola. Vorrei dedicare luce alla mia amica Fabi. E un augurio grande, perché fra pochi giorni darà alla luce una bambina. Ti amo di bene. Luce che si riproduce, grazie al buio che la conduce, nasce dal buio.

D'Agostino. Musica che unisce. Gigi D'Agostino. Musica, musica. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. Sono Manuel da Como e ora sono in viaggio per Venegono insieme alla musica di Gigi D'Agostino. Ne approfitto per salutare Nicolino. Preciso. Gigi D'Agostino, un altro modo di fare musica. Puoi salutare per favore mio figlio Anthony, che ha solo 5 anni ed è già un tuo fan. Sì, dai, dai, dai. Bye. Ciao. Ciao. Che faccia brutta che hai. Andiamo ad abitare nella mitica Sardegna. Giulie e Ale da Genova. Dai un po', po', po', informazioni sulle sue serate e sui suoi brani, clicca sui tasti, ma usa le mani. www.gigidagostino.com. Vai nel suo forum e inizia a cercare, e inizia a cercare, e inizia a cercare. E inizia a cercare, e inizia. Se proprio non trovi, ti fai aiutare. Every day I pray, every day I say, matter of fact, I really need you every day. People stick on top, some may be pumped, but don't worry, girl, I'm really gonna drop. When the sun is down, when the moon's gonna shine, girl, I really wanna be with you. Every hour, every minute, every day, every year, come on, girl, please stay with me. I think this girl wanna ride with me, talk with me, freak with me. She wanna be my Cinderella, my señorita. In the hot pop and now she's a witch. I wanna test if it's true that she real freak. I heard a lot about her, that she make it grow me silly. No, don't chill, just cry. Call me through it, come on. Gigi D'Agostino, il pittore che colora le nostre giornate a tempo. Dedico Stand By Me a Amy. Volevo ricordargli, attraverso questa dolce melodia, che nonostante la lontananza che separa i nostri corpi, lui inciampa sempre nel cammino dei miei pensieri quotidiani. Lady Blonde da Catania. Il cammino di Gigi D'Agostino. Musica che unisce. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me.

avesse il coraggio di sbagliare. Il suo sbaglio sono io, Silvia. Dove è andata Elena Tanz? Ops. Non va bene così. Dai, fa l'annuncio. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello in Austria. Questa sera, sabato 21 ottobre, Dance Club at One. Graz, Austria. Io non voglio limitare le strade al mio universo interiore e neanche al mio ascoltatore. Ecco perché nella mia serata è possibile sentire brani che appartengono a diversi tipi di linguaggio emotivo. Il Cammino di Gigi D'Agostino è una musica che unisce. Il Cammino e Gigi D'Agostino mandano un saluto, una pennellata e un colpo di martello a Salvo dalla Germania, Dani, Torino. Per le doc stasera. Giusy. Ciao Gigi. Hola, puta. Dedica una canzone al mio amore zoccoloso. Tipo? E digli che lo amo con tutta me stessa. Ti amo, mi vida. Olè. Tua zoccolosa. Inchia zoccoloso. È giusto. Sono perduto. È tutto quello che so. Spettacolo, frate. Bella Gigi. Il Cammino di Gigi D'Agostino. Reparto pelle d'oca. Gigi, sono Fabio da Tivoli. Sai, dovrei staccare alle 5:30, ma invece esco sempre alle 6 per entrare in macchina e ascoltare la tua musica che è davvero unica. Bravo, bravo. Dedicami Reparto pelle d'oca. Sì. Grazie. Tonight. Hai una qualche questione irrisolta? Un fatto anomalo? Un qualche tipo di problema? Te lo risolvo io. Scrivimi al 333-6467-662. Prova a risolvere, ma non ammalandoti, ma confrontandoti. Qui, se vuoi, puoi fare la tua protesta contro qualsiasi tipo di ingiustizia. Scrivi qui Il cammino di Gigi D'Agostino, 333-6467-662. Fai sentire a tutti le tue imprecazioni. E ma porca la bastarda. Non così, meno. E ma porca la bastarda. Neanche così, leggermente meno. Gina mi ha lasciato una troia. Leggermente meno. Non siamo a frantoio comunale. Voglio la casa del comune anch'io. Sono sola, con due bambini e italiana. Nicoletta da Ravenna. Era chiaro così, si è capito? Sì, sì. No, perché mi piace essere preciso. Il cammino di Gigi D'Agostino. La radio a colori. Ci sono giorni che sono triste, ma sto bene, non so più. Se il colore del sereno sia quel nero, torce blu. Ho bisogno di quel buio che sta lì dentro di me, per capire della starmi della luce intorno a me. Mentre scrivo sta canzone sono in viaggio e penso che Spagna e Francia e sti paesaggi mi raccontano di te. Non c'è cosa, non c'è luogo che non sappia di noi due, e nel mare al nostro amore con le ali mie due. Non ha senso una ragione che ti induce a dirmi che scopri dopo un ore e ore quella lì non fa per te. Qualche senso quando soffro solo io so che mi fa. Io non voglio star tranquillo, voglio questa vita qua. Mi distruggo con violenza, ma in altro penso che se non soffro non capisco cosa mi fa. Può sembrare una canzone di un bizzarro iettatore, ma son solo dei sentieri di un dottore pensatore. Non è vero che son triste, sono sensazioni miste. Sto devasto che mi ha avvolto, mi ha ravito, mi ha sconvolto. Malinconico e struggente è il mio mondo, sì lo so, ma piuttosto che la plastica io lascio e me ne vo. Un saluto da Luca e Davide dal Kangoo Volante di Rimini. Per maggiori informazioni sulle sue serate e sui suoi brani, clicca sui tasti, ma usa le mani. Capito come? www.gigidagostino.com. Vai nel suo forum e inizia a cercare. Se proprio non trovi, ti fai aiutare. saluto alla mia ragazza Fabiana. Giancarlo da Aprilia. Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a colpi di martello questa domenica. Il pomeriggio. Alla discoteca Vanilla Disco Vanitosa. Moimacco, Udine. Saluto a Elena Tanz. Lola Pota. La voce più sensuale che abbia mai sentito. Sì, vabbè. Andrea da San Luri. Alla piccola Giulia dal suo papà. Ti amo, mia piccola indiana newyorkese. Ana, sei fantastica. Milano. M2O, musica allo stato puro. Volevo ascoltare Stay e dire a Enzo che lo amo più di ogni altra cosa al mondo. Ica. Sto studiando tedesco con la tua musica. E devo dire che è molto più divertente. Caso namo, non è che mica giochiamo. Saluto Giulia e Federica. Lucia. Cause I need to be with you every moment of my life, from the morning till the night. So I'm begging you to stay, cause I need to be with you every moment of my life, from the morning till the night. So I'm begging you to stay, cause I need to be with you every moment of my life, from the morning till the night. So I'm begging you. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Le tue canzoni fanno troppo pensare. Ogni canzone ha la sua storia. Ogni canzone ha la sua lacrima. Ogni amore è un dolore che si tramuta poi con la tua musica per riviverla un'altra volta insieme. Anonimo. Dedicare l'amour toujours alla mia pata puzzolina Giulia, che mi manca come l'aria. Siamo Enrico e Stefania. Per festeggiare la nostra laurea e il nostro amore, vorremmo che ci dedicassi una canzone. Volevo dire a Fabio, il mio bambolo, che ascolta il cammino, che lo voglio sposare. Valentina. Finalmente la melodia giusta che rende il mio spirito libero di volare per immensi e sconfinati spazi al di sopra delle nuvole, accompagnato dalle sublimi note di Gigi D'Agostino. Raimondo, il postino. Volevo salutare Mariella, la mia futura moglie. Gigi, vieni a suonare al mio matrimonio. Domenico, da Isola Capo Rizzuto. sono Silvia. Il 20 ottobre di 21 anni fa, mamma Antonella e papà Domenico si sono sposati. Puoi fare loro gli auguri con l'Amour Toujours. Sono Romeo da Catanzaro. Mando un bacino a mia figlia Giulia di 15 mesi. I still believe in your eyes. There is no choice. I belong to your life because I live to love you someday. You'll be my baby and we'll fly away, and I'll fly with you. Gigi D'Agostino. Musica che unisce. M2O. Spettacolo, fratello. Aver scelto questo mondo. Il cammino di Gigi D'Agostino. Una buona occasione per diventare tamarri. We'll be right back. mi saluta tanto tanto tanto tanto.